Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si tu erit che stessa che la cacciavo pa me, cagna strada lungo passa, cerca non te fa vedere. Ognuno ven a beve se ne va, ma sta qua toia non fa, ma se da mia. Tu che sta sete non ma puoi levare. Fa paura, frunella amara, sha la la la la la la la la la la la, sha la la la la la la la la la la la la. Mamma mia m'aveva detto, figlia mia non ho pensato, che un cuore si è distrutto. Tinte mani che lulla, tu sei una fontanella e mezza via. Ognuno ven a beve se ne va, ma sta qua toia non fa, ma se da mia. Puoi lavare fronne granata, se vuoi fai buono in me, trovate annata. Come tu pierdo tempo e a serenata.